Buonasera a tutti, mi chiamo Bruno Damiani, sono il mio esordio come pianista, di solito suono la chitarra e canto con gli Etnia Super Santos. Stasera sbaglierò moltissimo, perché questo mi aiuterà a migliorare per le prossime esibizioni. Apro con una canzone che è un inedito, un brano che dal titolo provvisorio di Non era vero, che ho scritto circa 6 mesi fa. Quando mi baciavi al cinema non era vero, non era vero. Quando mi stringevi a Luna Park non era vero, non era vero. Ora che hai lasciato la città è un biglietto aperto sul Como. Ora che io so la verità non era vero, non era vero, non era vero niente, non era vero niente. Ma il tempo, tu lo sai, poi ci consola. Lo sai, poi si consuma. Non posso credere che non era vero, non era vero, non era vero, non era vero, non era vero, non era vero, non era vero, vero, vero, vero, vero niente. Non era vero. Quando mi giocavi sul sofà non era vero, non era vero. Quando ti vendevi l'anima non era vero, non era vero. Ora che hai lasciato la città è un mistero chiuso dentro te. Ora che io so la verità non era vero, non era vero, non era vero. Vero niente, ma il tempo, tu lo sai, poi ci consola. E l'amore, tu lo sai, poi si consuma. Posso credere che non era vero, non era vero, non era vero, non era vero, non era vero, non era vero, non era vero, vero, vero, vero, vero niente, non era vero niente. Grazie.